Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie. Storie di sangue, amici e fantasmi, sottotitolo Ricordi di mafia. È il libro scritto da Pietro Grasso, pubblicato da Feltrinelli, per raccontare una parte della storia della lotta alla mafia, dal maxi processo alla stagione dei collaboratori di giustizia, dall'arresto di Irina a quello di Provenzano, ma anche per raccontare il suo rapporto personale con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Grasso, attuale presidente del Senato, è stato procuratore capo a Palermo, aveva lavorato a fianco di Falcone e Borsellino, poi dal 2005 al 2013 è stato procuratore nazionale antimafia. Il libro ripercorre le tappe salienti della lotta alla mafia dagli anni Ottanta in poi e lo fa in modo chiaro, ricostruendo i fatti ma considerando sempre il punto di vista umano dei protagonisti di quei fatti. Si parte dal maxi processo del 1986 che ha dimostrato l'esistenza di Cosa Nostra, pietra miliare nella lotta alla mafia, 475 imputati, 346 condanne. Pietro Grasso racconta il retroscena di quel processo e anche l'impatto sulla sua carriera e sulla sua vita privata. Per me il maxi processo contro la mafia ha rappresentato innanzitutto un impegno professionale eccezionale che mi ha formato, perché io sono riuscito a superare tanti di quegli ostacoli organizzativi per poter adattare quel codice di procedura di allora alle esigenze di un maxi processo con 475 imputati, che per forza di cose mi sono rafforzato nella mia convinzione che niente è impossibile, perché superate quegli ostacoli, quelle difficoltà, poi nella mia carriera ho visto che ho acquistato molta più sicurezza. Quindi è stato veramente un banco di prova notevole. Da un punto di vista familiare poi è stato una prova per tutta quanta la mia famiglia, perché ha subito per colpa del mio lavoro tutta una serie di privazioni, di limitazioni, non solo alla libertà personale, ma anche di pressioni psicologiche, di minacce, di delegittimazioni, le telefonate mute a casa che davano quel senso di paura, anche perché io non ho voluto togliere il mio numero telefonico quando avevamo il numero fisso, non l'ho voluto togliere dall'elenco telefonico, proprio per mostrare che io ero pronto ad affrontare qualsiasi cosa. E quindi chiunque, bastava che cercasse nell'elenco telefonico, poteva fare la telefonata. E noi continuavamo. Quindi una prova di forza, perché dovevano capire gli avversari, perché erano dei propri nemici, con chi avevano a che fare, con tutta la famiglia. Ecco, la sua famiglia come reagì? Inevitabilmente fu coinvolta dalla sua partecipazione al maxi processo come giudice a Latere. Ma due reazioni diverse. Mia moglie, sapendo quanto io amavo la mia professione di magistrato e quanto avevo fatto per raggiungerla, si è adattata subito a quella che era la mia decisione, affrontando insieme tutte queste difficoltà. Mio figlio invece non accettò affatto questa situazione assolutamente nuova, che vedeva scomparire il padre, ma non solo il padre, perché essendo figlio unico, maschio, era anche il suo amico, il suo compagno di giochi nel tempo libero, il suo compagno nello sport, perché facevamo insieme, giocavamo a calcio, andavamo a sciare, facevamo windsurf, tennis, tutto quello che potevamo fare insieme. Da un giorno all'altro mi vide circondato da uomini con i mitri in mano e con i giubbotti antiproiettile e scomparì dalla sua vita, perché la mattina uscivo presto, la sera arrivavo tardi. Si è dovuto creare dei nuovi amici e questo ha sofferto molto di questa situazione. E per anni ha avuto una sorta di rancore verso il mio lavoro, perché lo vedeva come il responsabile di questa sua sofferenza. Ma lo sa quando abbiamo risolto tutto? In un momento assolutamente particolare, per cui ecco, le tragedie alle volte aiutano a superare momenti difficili. Il momento in cui insieme eravamo a casa a Palermo apprendemmo della notizia dell'assaggio di Capaci. Ci abbracciammo, quasi piangemmo, e allora lui capì che per il nostro lavoro si poteva anche morire. E quindi si sentì compartecipe, anche lui aveva dato qualcosa con quella sofferenza, con quelle privazioni, anche perché Falcone, che non aveva figli, e nel tempo libero quando ci incontravamo giocava anche con lui, giocava a ping pong e gli raccontava le storie, e quindi lui ha sofferto anche la mancanza di un amico di famiglia. A proposito della strage di Capaci, questo libro si apre con una lettera virtuale a Giovanni Falcone e si conclude con una lettera invece a Paolo Borsellino, dove lei parla a loro innanzitutto come amici e poi come uomini di Stato, come colleghi, insomma come esempi, però dice chiaramente che non ne vuole fare degli eroi. Perché? Perché gli eroi sono qualcosa di lontano dalla realtà di ogni giorno. Io, guardando appunto il mio nipotino che vede i videogiochi dei supereroi che hanno dei poteri eccezionali, che volano, che distruggono tutto, che sono delle cose della fantasia irraggiungibili anche. Mentre io ho sempre visto in Falcone e Borsellino delle persone certamente eccezionali, dei fuoriclasse, ma delle persone che in fondo erano anche normali, perché io le ho vissute nella loro umanità, nella loro normalità. Quindi io li vedo come degli esempi da seguire, perché la loro eccezionalità, quella che sembra un'eccezionalità, invece è qualcosa che dovremmo avere tutti, cioè il senso del dovere, lo spirito di servizio, il senso dello Stato. Quindi io li voglio reali, normali e esempi da seguire per poter cambiare, come volevano loro, il mondo e renderlo migliore, renderlo più eticamente, più sopportabile. Dopo che la Cassazione confermò le sentenze del maxi processo, ci furono appunto la strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio, ci fu una reazione aggressiva, fortissima della mafia, e poi ci furono anche le stragi del 93, Milano, Firenze e Roma. Voi, chiaramente da magistrati, eravate coscienti di quello che sarebbe potuto accadere. Addirittura alcuni anni prima Ninni Cassarà vi definì tutti quanti dei cadaveri che camminavano. Come lei, Falcone Borsellino, vivevate questa situazione sapendo che eravate uno dei possibili obiettivi? Ma noi vivevamo il pericolo che era connaturato col nostro lavoro, perché erano successi tanti di quegli omicidi di persone delle istituzioni, di rappresentanti delle istituzioni, che non potevamo pensare che noi eravamo fuori da quel, l'obiettivo, da quel mirino. E quindi passavamo spesso il tempo, quando eravamo insieme, a scherzarci su, una sorta di esorcismo del pericolo, che sapevamo benissimo che fosse presente. Insomma, c'era Borsellino che diceva: Giovanni, io lo so, tu sei il primo, quindi io sto tranquillo, finché non fanno niente a te, io sono sicuro. Oppure nel momento in cui si scherzava, arrivando al Palazzo di Giustizia, Giovanni Falcone vedeva l'autoambulanza dell'Avis per raccogliere il sangue e faceva: cioè, guarda, pure qua ci vogliono levare il sangue. Insomma, cose di questo genere. Per cui abbiamo affrontato con consapevolezza. Però il senso di colpa di essere sopravvissuto rispetto a tutti i pericoli, perché anche io ho avuto i miei momenti di esposizione al pericolo e solamente per coincidenze fortunate non è successo l'irreparabile, io penso che a questo senso di colpa di essere sopravvissuto se ne aggiunge un altro senso di colpa, quello di un'idea paradossale che ho maturato negli anni: ma se non avessimo superato tutti quegli ostacoli del maxi processo, se la sentenza non fosse diventata definitiva, ci sarebbe stata quella reazione e loro sarebbero ancora vivi oppure no? E mi sono dato però una risposta, nel senso che, siccome conoscevamo che non si sarebbero mai fermati, non ci saremmo mai fermati, se il processo non andava a buon fine ne avrebbero fatto un altro, avrebbero trovato altri pentiti, quindi la reazione ci sarebbe stata comunque nei nostri confronti. Lei parla apertamente anche in questo libro appunto del senso di colpa del sopravvissuto. Ora che lei ormai ha fatto anche della sua vita una testimonianza di quella storia della lotta alla mafia. Nel momento in cui parla di Falcone, di Borsellino, le capita mai di avere un senso, non dico di colpa, ma come di estraniamento per il fatto che parla di loro nel momento in cui loro non ci sono, come se si appropriasse in qualche modo di qualcosa che non è suo? No, io li sento molto vicini. Li sento molto vicini non soltanto nei giorni della commemorazione, ma in tutta la mia vita e in tutta la mia professione. E non sento di appropriarmi, anzi voglio dare testimonianza della loro azione, del loro spirito di servizio, di tutto quello che hanno fatto. E questo me li fa sentire sempre vicini a me. Quindi, difatti, qualcuno mi dice, ma parli sempre di loro. Sì, perché me li ritrovo accanto nelle cose di ogni giorno. E quindi per me, dinanzi alle loro bare, giurai che la loro morte non sarebbe stata vana e ho cercato fino in fondo la verità anche sulle loro morti. E come posso, anche con una funzione diversa, non ho perso di vista i miei obiettivi di legalità, di giustizia e di ricerca della verità. Al termine di questo libro c'è una lettera, appunto, dicevamo, a Paolo Borsellino. Mi ha colpito molto l'incipit di questa lettera, perché lei scrive: caro Paolo, quanto sono lunghi e quanti sono potenzialmente pieni di vita 57 giorni, perché tanti sono i giorni che passano dalla strage di Capaci a quella di via D'Amelio. Che cosa c'è stato in quei 57 giorni? Ma intanto ho visto il volto di Paolo cambiare completamente espressione. Lui, che era una persona allegra, che gioiosa, che aveva nel rapporto con gli altri sempre sorridente, pronto alla battuta, diventò triste, livido di rabbia e di dolore. E poi si dette freneticamente al lavoro. Lui era arrivato da poco alla procura di Palermo come procuratore aggiunto da Marsala e quindi si dette da fare, però non aveva ricevuto l'incarico di occuparsi della zona di Palermo, ma aveva avuto quella di Trapani, e questo lo angustiava perché voleva occuparsi dell'indagine soprattutto su Cosa Nostra palermitana. Aveva una frenesia terrificante perché frattanto c'erano dei pentiti che chiedevano di parlare solo con lui, perché capivano e sapevano che era affidabile soltanto lui. Questo lo faceva soffrire ed era in contrasto col procuratore capo di allora. Dopodiché si dava comunque da fare e riusciva con frenesia, appunto, a fare il suo lavoro, alla ricerca della verità anche lui, di capire. E qualche idea sicuramente se l'era fatta ed era pronto a andarla a riferire a Caltanissetta, che era la procura competente per le indagini, solo che non fece in tempo. Sono stati uomini che hanno continuato, nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato, se hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa prima di sparare, pensa. E questo era Pietro Grasso, presidente del Senato, autore di Storie di sangue, amici e fantasmi, pubblicato da Feltrinelli. Vi ricordo che in estate il Cacciatore di Libri va in onda il sabato alle 6.30 e alle 22, ma anche la domenica alle 16.15 e alle 20.45. Come sempre trovate tutti i podcast su radio24.it. Grazie a regia d'Andrea Roccabella, una buona lettura da Alessandra Tedesco.